scende insieme alle ombre, ti accende la mente di dubbi e perché. La sorte che attende, la luna che incombe, timori e domande sollevano in te. Di colpo dal cielo discende una stella ed uno straniero appare dal nulla. Nozioni e pensieri più paura.